Capitolo 4. In libreria. A. Sfera. 1. Ascolta il dialogo. Buongiorno. Buongiorno. Posso aiutarla? 2 settimane fa ho ordinato un libro. Può controllare se è arrivato? Certo. Qual è il titolo? Sfera. È un libro di architettura. Un attimo, controllo. Sì. Lo abbiamo ordinato, ma mi dispiace. Non ce l'hanno ancora consegnato. Vede? Ci arrivano continuamente nuovi libri. Questi, ad esempio, sono sui parchi nazionali. Belli, vero? Sono certa che prestissimo ci consegneranno anche il suo libro. È incredibile! Prego? Non sono per niente soddisfatto. Ve l'ho ordinato da 2 settimane e ogni giorno mi dite la stessa cosa. Me la dice lei, me la dice la sua collega, me la dice il direttore. Lei ha ragione, ma non dipende da noi. Sa... Sì, sì, ci sono stati dei giorni di festa e alcune consegne sono in ritardo. Infatti, è proprio così. Senta, vuole annullare l'ordine e rinunciare al libro? Vuole vederne degli altri? I libri di architettura sono tanti. E sono tutti in quel settore. No, no. Ho bisogno di quello. Me l'ha consigliato una mia collega. Vengo qui tutte le mattine prima di andare al lavoro. Sì, lo so. Capisco. Senta, io vorrei veramente aiutarla. Se vuole posso chiamarla non appena arriva il libro. Così... Non mi dispiacerebbe. Che cosa succede qui? Ah... E lei, signore, ancora non è arrivato niente? Già, e non sono molto soddisfatto, sa?